abbiamo le idee chiare, abbiamo scritto un programma elettorale e a quello ci atterremo. Prima di tutto bisognerà fare il federalismo fiscale e occuparci del problema della sicurezza. Questa è una cosa che i cittadini ci chiedono e la presenza del ministro Maroni sarà molto importante. Sicuramente la compagine è composta da ministri e da sottosegretari, quindi se c'è qualcosa da riequilibrare, i sottosegretari sicuramente sono una componente. Così come è stata fatta la squadra dei ministri, verrà tranquillamente fatta la squadra dei sottosegretari. Questo sarà un governo snello, composto soltanto da 60 componenti e ne guadagnerà sicuramente la efficienza dell'azione. Questo è un obiettivo molto importante che è stato raggiunto.